In chiusura vorrei leggervi questa dichiarazione del 17 settembre del 2021, sempre di Giorgio Agaben, che interpreto come l'incipit di quella comunità utopica, e qui oso il plurale, che sono convinta molti di noi cercano di realizzare. Scrive Agaben: l'Italia, come laboratorio politico dell'Occidente, in cui si elaborano in anticipo nella loro forma estrema le strategie dei poteri dominanti, è oggi un paese umanamente e politicamente in sfacelo, in cui una tirannide senza scrupoli e decisa a tutto si è alleata con una massa in preda a un terrore pseudo-religioso, pronta a sacrificare non soltanto quelle che si chiamavano un tempo libertà costituzionali, ma persino ogni calore nelle relazioni umane. Credere infatti che il Green Pass significhi il ritorno alla normalità è davvero ingenuo. Così come si impone già un terzo vaccino, se ne imporranno dei nuovi e si dichiareranno nuove situazioni di emergenza e nuove zone rosse, finché il governo e i poteri che esso esprime lo giudicherà utile. E a farne le spese saranno, in primis, proprio coloro che hanno incautamente obbedito. In queste condizioni, senza deporre ogni possibile strumento di resistenza immediata, occorre che i dissidenti pensino a creare qualcosa come una società nella società, una comunità degli amici e dei vicini dentro la società dell'inimicizia e della distanza. Le forme di questa nuova clandestinità, che dovrà rendersi il più possibile autonoma dalle istituzioni, andranno di volta in volta meditate e sperimentate, ma solo esse potranno garantire l'umana sopravvivenza in un mondo che si è votato a una più o meno consapevole autodistruzione. La bella che guarda il mare, la la la la la la, la la la la la la, aspetta il suo cavaliere, la la la la la la, la la la. La bella che guarda il mare, la la la la la la, il suo cavaliere, la la la la la la la la la, la bella che addormentata, la la la la la la la la la la, un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà, con tre corone in testa, ha governato il re, e lì che l'ha nascosta, perché, perché, perché, la bella che addormentata, la bella prigioniera, la la la la la la la la la la, un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà, con tre corone in testa ha governato il re, tenite la nascosta, perché, perché, perché, la bella che dorme in casa, la la la la la la la la la, libertà, libertà, la bella che prigioniera, la la la la la la la la la, ha un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà, la bella serina è stata, la la la la la la la la la la, ha un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà. E allora,